Ho scoperto recentemente che uno scudo non è soltanto quello strumento di difesa di varia foggia utilizzato in combattimento da molteplici società guerriere dell'era del bronzo e del ferro. Può essere, non ve ne stupiate, un acronimo. Per l'esattezza, l'acronimo italiano di un'espressione inglese. In un testo, diciamo così, pubblicitario che mi è capitato di recente sott'occhio, scudo, S-C-U-D-O in lettere maiuscole puntate, sta per Security Consulting United Directors Organization, che dovrebbe significare più o meno Organizzazione Unita di Consulenza Didattica per la Sicurezza, come a dire una struttura, qui veramente la si definisce una joint, in cui più organizzazioni uniscono le proprie forze per spiegare a chi per motivi professionali ne abbia o personali ne abbia bisogno come migliorare la sicurezza propria o altrui. I motivi per cui un organismo del genere si è costituito e si offre sul mercato sono a prima vista persuasivi. La nuova ondata terroristica di crimine organizzato, si legge, attraversa un momento di rapida escalation e turba la necessità della vita quotidiana, seminando paura e preoccupazione nella società civile. I governi e le organizzazioni internazionali affrontano questa minaccia con provvedimenti di emergenza e con l'adozione di regolamenti, direttive e risoluzioni dedicate alla verifica e all'efficacia delle misure di sicurezza già in atto. I proponenti, quindi, interpreti dell'attuale disagio e forti dei propri strumenti istituzionali, hanno ideato e sottopongono all'attenzione del pubblico un programma a favore delle persone e delle proprietà all'interno degli ambienti più a rischio. Nel concreto, l'offerta è quella di una serie di corsi professionali per la formazione di operatori esperti in materia. Le tipologie previste sono 14 e vanno dal security training, così dicono, per Ship Security Officer, SSO, e Company Security Officer, CSO, che immagino siano gli ufficiali e i funzionari addetti alla sicurezza sulle navi e negli uffici, a quelli per il personale aeroportuale, gli impiegati bancari, gli ufficiali delle forze dell'ordine, i commercianti, le guardie giurate e via andare. A costoro si offre, suppongo a pagamento, una formazione efficace per la prevenzione e la riduzione dei rischi, per l'identificazione just in time delle possibili minacce e per la protezione propria e altrui in caso di attentato e di aggressione. Niente da eccepire fin qui, salvo forse una certa sovrabbondanza di maiuscole e di termini inglesi. Viviamo in tempi difficili. Sai Dio se il terrorismo e la criminalità non rappresentano delle minacce reali, anche se sull'incidenza dell'una e dell'altro nella vita di tutti i giorni si tende per svariati motivi a esagerare. E l'idea di insegnare alla gente il modo migliore di reagirvi senza perdere la testa non sembra a prima vista malvagia. Uno degli enti proponenti, una certa Logans Limited di cui personalmente non avevo mai sentito parlare, si presenta come fondata nel 1988 da un gruppo di consulenti di sicurezza dotati di un vasto know-how e di una grande esperienza nel campo, esperti che hanno riunito una serie di qualità e di capacità e le hanno integrate per formare una sinergia vincente. E si impegna a formare per ogni progetto i team più adeguati per creare una sinergia vincente a Ridangheda, al fine di massimizzare l'efficacia, la professionalità e l'efficienza della sicurezza. Benissimo. Quello che può lasciare perplessi semmai è l'elencazione delle qualifiche del personale. Le squadre della Logans, a quanto sembra, sono formate da 1. Ex alti ufficiali delle forze della difesa israeliani, 2. Ex alti ufficiali dell'esercito e signor della marina internazionali, 3. Tecnici delle forze speciali antiterrorismo israeliani, 4. Specialisti di sicurezza antiterrorismo civile israeliani ed internazionali, 5. Ex ufficiali di polizia internazionali, 6. Consulenti di sicurezza specializzati in sicurezza marittima e aerea, 7. Tecnici specializzati in tecnologia e in insiemi di sicurezza, 8 esperti di intelligence internazionale. Come a dire, tecnici a parte di ex militari, ex poliziotti ed ex spie, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle varie forze speciali o che abbiano operato sotto bandiera israeliana. E niente di strano anche in questo, naturalmente, anche a prescindere dal fatto che, come si può facilmente appurare la stessa Logans limite di un'organizzazione israeliana, la scelta si spiega con l'alto grado di sicurezza delle forze di quel paese. Non occorre avere particolari competenze in tema di intelligence per conoscere la fama del Mossad, e basta leggere i giornali per sapere con quanta micidiale efficienza i militari e gli specialisti del governo di Gerusalemme sanno intervenire contro chi mette a repentaglio la vita dei loro concittadini. Esperti più esperti di loro sembrerebbero davvero difficili da trovare. Ma poi naturalmente uno comincia a riflettere. Comincia a dirsi che, efficienza o non efficienza delle sue forze speciali, Israele non è poi un paese tanto sicuro. E non solo forse perché i suoi nemici siano particolarmente agguerriti e feroci. In fondo, la sicurezza in senso lato non si identifica al 100% con la security, nel senso che non dipende soltanto dalla capacità di difendersi, e c'entra molto anche quella di non aggravare ed esacerbare le ostilità, il saper risolvere i problemi di convivenza e le rivalità storiche con giustizia e lungimiranza, con la consapevolezza che la violenza, per quanto sublimata tecnologicamente, chiama solo altra violenza, e che certe tensioni si possono anche ridurre a forza di compromessi e di buona volontà. Tutte qualità che, come è noto, all'attuale governo israeliano sarebbe difficile riconoscere e che naturalmente ai tecnici dell'antiterrorismo non vengono richieste. Per cui forse potrebbe valere la pena di chiedersi se la cultura della sicurezza come risposta esclusivamente militare non sia in ultima analisi più dannosa che altro, e se affidarsi esclusivamente in materia a quel tipo di tecnici non possa significare un passo in più verso quella specie di militarizzazione totale della società che, come non ha rappresentato niente di buono laggiù, niente di buono può rappresentare per noi. A queste domande ovviamente ciascuno può dare la risposta che crede, per poi agire di conseguenza. Chi si sentirà convinto, per un motivo o per l'altro, che le minacce vengono sempre e solo dal di fuori, perché la violenza dipende sempre e soltanto dalla malevolenza degli altri, potrà rivolgersi in piena tranquillità a enti del tipo della Logans Limited, e chissà quante altre ce ne saranno. Certo di trovarvi il più sicuro dei presidi. Ma a me corre l'obbligo di far notare, per completezza di informazione, che a proporre in Italia questo tipo di scudo non sono soltanto loro. I proponenti, vi dicevo, sono due. Ex alti ufficiali ed esperti di intelligence sono chiamati a mettere a frutto il bagaglio delle loro competenze, ma non sono loro ad organizzare i corsi che il programma concretamente propone. Anche questo è un compito specializzato e tocca ovviamente a degli specialisti. Ebbene, il partner della Logans in questa occasione non è altro che l'ENAIP, Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, che, se non lo sapete, è una delle strutture più importanti dell'associazionismo sociale cristiano nel paese. E se vi pare strano che un ente morale che emana dalle Acli, che come noto fanno parte della Tavola della Pace e contribuiscono non poco a esprimere l'opposizione alla guerra di tanta parte del mondo cattolico, che un ente simile organizzi e proponga una serie di corsi professionali tenuti da ex alti ufficiali dell'esercito e delle forze speciali israeliane, non posso che darvi ragione di tutto cuore. La cultura della pace, evidentemente, in questo nostro strano paese non ha attecchito fino in fondo.